Il terzo anello, ad alta voce, Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Nell'ultima lettura abbiamo visto come il progetto del principe Vassili di fare sposare il figlio Anatol con la principessina Maria, la sorella di Andrei Balkonski, ricordate, sia fallito perché il giovanotto si è fatto sorprendere tra le braccia di Mademoiselle Bourienne, la francesina dama di compagnia della principessa. Intanto, dopo mesi senza notizie, i Rostov ricevono dal fronte una lettera del figlio, che li informa di essere stato ferito e anche però promosso ufficiale. Al fronte, l'imperatore Alessandro passa in rivista il suo esercito, suscitando passioni ed entusiasmi nei giovani ufficiali e particolarmente nell'animo ardente di Nicolai. Il consiglio di guerra, riunitosi dopo la rivista, decide, contro l'opinione degli anziani, come Kutuzov e il principe Schwarzenberg, di aprire subito l'offensiva e di dare una battaglia campale contro Bonaparte. All'alba dunque del 16 novembre, lo squadrone di Denisov, nel quale serve anche Nicolai Rostov, si muove per entrare in azione. Ad un tratto si sparge la voce che stia arrivando l'imperatore. L'imperatore, giunto dinanzi a Rostov, si fermò. Il viso di Alessandro era ancora più bello che non fosse alla rivista, 3 giorni prima. Esso splendeva di tanta gioia e di tanta innocente giovinezza che ricordava la vivacità di un fanciullo di 14 anni e al tempo stesso era sempre il viso di un maestoso imperatore. Guardando a caso lo squadrone, gli occhi dell'imperatore si incontrarono con gli occhi di Rostov e restarono fissi in quelli non più di 2 secondi. Poi, tutto a un tratto, egli alzò le sopracciglia, con un brusco movimento diede un colpo al cavallo con la gamba sinistra e andò avanti al galoppo. A Wieschau, piccola città tedesca, Rostov vide ancora una volta l'imperatore. Guardava un soldato steso in terra bocconi, senza casco e col capo insanguinato. Rostov vide le spalle un poco curve dell'imperatore, scosse da brividi, come sotto l'impressione del gelo. Il soldato mandò un gemito. Più piano, non si può fare più piano, disse l'imperatore, che pareva soffrire più del soldato moribondo, e si allontanò. Rostov era davvero innamorato dello zar e della gloria delle armi russe e della speranza di un futuro trionfo. E non era il solo a provare questo sentimento in quei giorni memorabili che precedettero la battaglia di Austerlitz. 9 decimi dei soldati dell'esercito russo a quel tempo erano innamorati, anche se con minore entusiasmo, del loro zar e della gloria delle armi russe. Ecco, e ora mancano davvero pochi giorni alla battaglia di Austerlitz. Rostov, quella notte, era col suo plotone agli avamposti del corpo di Bagration. I suoi usseri erano disseminati a due, a catena. Egli stesso percorreva a cavallo quella linea a catena, sforzandosi di allontanare il sonno che lo vinceva inesorabilmente. Dietro a lui era visibile l'enorme distesa dei fuochi di bivacco del nostro esercito, che rilucevano confusamente nella nebbia. Innanzi a lui era una nebulosa oscurità. Per quanto Rostov figgesse gli occhi in quella nebbiosa lontananza, non vedeva nulla. Ora si mostrava qualche cosa di grigio o di nero, ora balenavano come dei fuochi là dove doveva essere il nemico, ora gli pareva che fosse soltanto un abbaglio della sua vista. I suoi occhi si chiudevano, e gli si presentavano all'immaginazione ora l'imperatore, ora Denisov, ora ricordi di Mosca, ed egli tornava ad aprire in fretta gli occhi e vedeva lì davanti a sé la testa e le orecchie del cavallo che montava, a volte le nere figure degli usseri, quando si avvicinava a 6 passi da loro, ma lontano sempre quella stessa oscurità nebbiosa. «E se volesse me, vicino alla sua persona?» pensava Rostov. «Oh, come lo difenderei!» Come gli direi tutta la verità, come smaschererei quelli che lo ingannano. Si raddrizzò in sella e spronò il cavallo per fare ancora una volta il giro dei suoi usseri. Un sonno giovanile, infantile, lo tirava giù invincibilmente. Sì, sì, a che pensavo? Purché non mi dimentichi. Ma come parlerò all'imperatore? No, no, no, no, non si tratta di questo. Questo sarà domani, sì, sì, sì, sì. E lasciò di nuovo cadere la testa sul collo del cavallo. A un tratto gli parve che gli sparassero addosso. Nell'istante in cui aprì gli occhi, udì davanti a sé, là dov'era il nemico, le grida prolungate di mille voci. Si accese e si spense prima un fuoco, poi un altro, e per tutta la linea delle truppe francesi, sull'altura, si accesero fuochi, e le grida si facevano sempre più forti. Rostov sentiva il suono di parole francesi, ma non le poteva distinguere. Troppo forte era il rombo delle voci. Le grida gioiose, trionfanti dell'esercito nemico, avevano avuto l'effetto di ridestarlo. «Vive l'Empereur! L'Empereur!» udiva ormai chiaramente Rostov. Rostov diede di sprone al cavallo e si diresse verso l'altura, nella direzione delle grida che continuavano. Arrivato in basso al trotto, non vedeva più né i nostri né i fuochi nemici, ma udiva più forti e più distinti i gridi dei francesi. Nella valletta scorse dinanzi a sé qualcosa che pareva un fiume, ma quando vi giunse riconobbe che era una strada carrozzabile. Sbucato sulla strada, trattenne il cavallo indeciso. Doveva seguirla o attraversarla e avviarsi in su per i campi neri. E noi lasciamo per adesso Nicolai, in mezzo all'oscurità, in mezzo ai suoi dubbi, ma con nel cuore un solo ardente desiderio. Domani, molto probabilmente, mi manderanno con qualche ordine dall'imperatore, pensò. Sia lodato Dio. Era alle 9 di mattina. La nebbia si stendeva giù in basso come un mare compatto, ma presso il villaggio di Schlapanitz, sull'altura dove si trovava Napoleone, circondato dai suoi marescialli, era perfettamente chiaro. Sopra di lui era un cielo sereno, azzurro, e l'enorme sfera del sole, come un enorme e cavo galleggiante purpureo, ondeggiava alla superficie dell'attiginoso mare di nebbia. Napoleone stava un poco innanzi ai suoi marescialli, su di un piccolo cavallo arabo grigio, con un cappotto turchino, quello stesso col quale aveva fatto la campagna d'Italia. Egli osservava in silenzio le alture che parevano emergere dal mare di nebbia e sulle quali, in lontananza, si muovevano le truppe russe, e tendeva l'orecchio al rumore della fucileria nella valle. Sul suo viso, a quel tempo ancora magro, non un muscolo si muoveva. Gli occhi lucenti erano immobili e fissi in un punto. Le sue previsioni si avveravano. Era quello per lui un giorno solenne, l'anniversario della sua incoronazione. Verso il mattino s'era addormentato per qualche ora e in buona salute, allegro, fresco, in quel felice stato d'animo in cui tutto sembra possibile e tutto riesce, era montato a cavallo ed era andato sul terreno. Ora stava immobile, guardando le alture che spuntavano dalla nebbia, e sul suo freddo viso era quella particolare espressione di sicura e meritata gioia che ha il viso di un ragazzo innamorato e felice. I marescialli stavano un po' indietro e non osavano distrarre la sua attenzione. Egli guardava ora le alture di Pratzen, ora il sole che emergeva dalla nebbia. Quando il sole fu interamente uscito dalla nebbia e versò il suo accecante splendore sui campi e sulla nebbia stessa, come se non avesse aspettato che questo per impegnar battaglia, egli si tolse il guanto dalla bella piccola mano, fece cenno con quella ai marescialli e diede l'ordine di cominciare l'azione. Il principe Andrei si sentiva eccitato, irritato, eppure si manteneva calmo, come suole esserlo un uomo quando giunge un momento lungamente desiderato. A sinistra, in basso, nella nebbia, si sentiva uno scambio di colpi fra le truppe invisibili. Pareva al principe Andrei che là si concentrasse la battaglia, là si dovesse incontrare il vero ostacolo, e là, pensava, sarò mandato con una brigata o una divisione, e là, con una bandiera in mano, andrò avanti e spezzerò quanto ci sarà dinanzi a me. Una folla confusa, che andava sempre crescendo, fuggiva indietro verso il posto dove 5 minuti prima le truppe erano sfilate davanti agli imperatori. Non soltanto era difficile arrestare quella folla, ma era impossibile non lasciarsi trascinare indietro insieme con essa. Balkonski cercava solo di non rimanere separato dalla folla e si guardava intorno perplesso, incapace di capire ciò che accadeva davanti a lui. Le truppe fuggivano in una massa così compatta che una volta capitati in mezzo a quella folla era difficile uscirne. «Fermate quelle canaglie!» gridò affannosamente Kutuzov al comandante del reggimento, indicando i fuggiaschi. Ma in quello stesso istante, come a punizione di quelle parole, le palle, fischiando, volarono come uno stormo di uccellini sul reggimento e sul seguito di Kutuzov. I francesi attaccavano la batteria e, vedendo Kutuzov, avevano tirato su di lui. A quella scarica il comandante del reggimento si portò le mani a una gamba. Alcuni soldati caddero e il portabandiera lasciò cadere di mano il vessillo. Questo vacillò e cadde, trattenuto dai fucili dei soldati vicini. I soldati, senza averne l'ordine, cominciarono a sparare. «Oh!» ruggiva Kutuzov con un'espressione disperata e si guardò intorno. «Balkonski!» mormorò con voce tremante per la consapevolezza della sua senile impotenza. «Balkonski!» mormorò, mostrando il battaglione in rotta e il nemico. «Che è mai questo?» Ma prima che avesse finito di pronunziare queste parole, il principe Andrei, sentendosi salire in gola delle lacrime di vergogna e di rabbia, già era saltato giù da cavallo e correva verso la bandiera. Si sentiva sul capo il fischio incessante delle palle e senza tregua, a destra e a sinistra, vedeva soldati che cadevano gemendo. Ma egli non li guardava. Fissava soltanto ciò che avveniva davanti a lui, dov'era la batteria. Vedeva già chiaramente la figura di un artigliere dai capelli rossi, col chepi gettato da una parte, che tirava a sé uno scovolo, mentre un soldato francese lo tirava in senso contrario. Ma il principe Andrei non vide come finì la cosa. Gli parve che uno dei soldati più vicini, con tutta la forza del suo braccio, lo colpisse sul capo con un grosso bastone. Non sentì molto dolore, ma piuttosto dispetto, perché quel dolore lo distraeva e gli impediva di vedere quello che stava guardando. «Che cos'è? Sto cadendo. Le gambe mi vacillano», pensò, e cadde supino. Aprì gli occhi, sperando di vedere come fosse finita la lotta dei francesi con gli artiglieri e col desiderio di sapere se l'artigliere dai capelli rossi fosse stato ucciso o no, se i cannoni fossero stati presi o salvati. Ma non vedeva nulla. Sopra di lui non c'era più nulla. Se non il cielo. Un cielo alto, non sereno, ma pure infinitamente alto, con nuvole grigie che vi strisciavano sopra dolcemente. Che silenzio, che quiete, che solennità. Non è più come quando correvo, pensò il principe Andrei. Non è più come quando correvamo gridando e battendoci. Non è più come quando l'artigliere e il francese si strappavano l'un l'altro lo scovolo con visi rabbiosi e spaventati. Non è così che le nuvole scorrono su questo cielo alto, infinito. Come non lo vedevo prima, questo cielo così alto? E come son felice di averlo finalmente conosciuto. Sì, tutto è vuoto, tutto è inganno, fuori che questo cielo infinito. Non c'è niente, niente all'infuori di esso. Ma anch'esso non esiste. Non c'è nulla all'infuori del silenzio e della tranquillità. E Dio ne sia lodato. Dopo essere smontato di servizio, Rostov aveva potuto dormire qualche ora verso il mattino e si sentiva allegro, ardito, risoluto, con quell'elasticità di movimenti, quella fiducia nella propria fortuna e quella disposizione d'animo in cui tutto pare facile, allegro e possibile. Tutti i suoi desideri quella mattina erano esauditi. C'era una battaglia campale e lui vi prendeva parte. Ben più, era ufficiale d'ordinanza di un valorosissimo generale. Più ancora, andava con un messaggio da Kutuzov e forse dallo stesso imperatore. La mattina era chiara, il suo cavallo buono, egli era lieto e felice. Ricevuto l'ordine, lanciò il cavallo e galoppò lungo la linea. Mentre passava dietro i reggimenti di fanteria della guardia, udì una voce che lo chiamava per nome. Era Baris, che cominciò a raccontare in che modo la guardia, che stava ferma al suo posto e aveva veduto davanti a sé delle truppe, le aveva prese per austriaci, e a un tratto, dalle palle tirate da quelle truppe, s'era accorta di trovarsi in prima linea e aveva dovuto inaspettatamente entrare in azione. Rostov, senza ascoltare Baris fino in fondo, mosse il cavallo. Un ufficiale ferito che gli passava vicino si rivolse a lui. «Ma chi cercate?» domandò l'ufficiale. Il comandante in capo è stato ucciso da una palla di cannone che l'ha colpito in petto, davanti al nostro reggimento. Non ucciso, ferito, corresse un altro ufficiale. Ma chi? Kutuzov? Domandò Rostov. Non Kutuzov. Come si chiama? Via, fa lo stesso. Vivi non ce n'è rimasti molti. Andate là, in quel villaggio. Là si è riunito tutto il comando, disse il secondo ufficiale. Rostov cavalcava al passo, non sapendo perché e da chi sarebbe ormai andato. L'imperatore ferito, la battaglia perduta. Era impossibile non credervi ora. Rostov seguiva la direzione che gli era stata indicata e nella quale apparivano lontano una torre e una chiesa. Perché doveva affrettarsi? Che avrebbe detto all'imperatore o a Kutuzov, seppure fossero stati vivi e non feriti? Ora tutto è indifferente. Se l'imperatore è ferito, debbo risparmiarmi, pensava. Giunse a quel tratto di terreno dove in più gran numero erano stati i morti fra i fuggiaschi di Pratzen. I francesi non avevano ancora occupato quel posto e i russi che erano rimasti vivi o feriti l'avevano abbandonato da un pezzo. Sul terreno, come biche di grano su di un buon campo, giacevano 10, 15 uomini uccisi o feriti per ogni pertica di terra. I feriti si riunivano a 2, a 3 insieme e si udivano le loro grida e i loro lamenti. Rostov mise il cavallo al trotto per non vedere tutta quella gente che soffriva e si sentì d'aver paura. Non temeva per la sua vita, ma temeva di perdere il coraggio che gli era necessario e che, lo sapeva, non avrebbe resistito alla vista di quegli infelici. Verso le 5 di sera la battaglia era perduta su tutti i punti. Più di 100 cannoni si trovavano già in potere dei francesi. Sull'altura di Pratzen, nello stesso punto in cui era caduto con l'asta della bandiera fra le braccia, il principe Andrei Balkonski giaceva a terra perdendo sangue e si lamentava, senza nemmeno saperlo, con un lamento sommesso, pietoso e infantile. Verso sera smise di lamentarsi e tacque del tutto. Non seppe mai quanto tempo fosse durato il suo svenimento. A un tratto sentì di nuovo d'essere vivo e di soffrire per un dolore al capo, cocente e lacerante. «Dov'è quel cielo così alto che finora non conoscevo e che oggi ho veduto?» fu il suo primo pensiero. «E anche questa sofferenza non conoscevo», pensò. «Sì, finora non conoscevo nulla, nulla. Ma dove sono?» Si mise in ascolto e udì il rumore di un calpestio di cavalli che si avvicinava e il suono di alcune voci che parlavano in francese. Aprì gli occhi. I cavalieri che si erano avvicinati erano Napoleone e 2 suoi aiutanti di campo. Bonaparte, percorrendo il campo di battaglia, dava gli ultimi ordini e osservava i morti e i feriti rimasti sul campo di battaglia. «De Bosom», disse Napoleone, guardando un granatiere russo ucciso che, con la faccia affondata in terra e la nuca annerita, giaceva bocconi, spingendo lontano un braccio già irrigidito. «Voilà un bel mort», disse Napoleone, guardando Balkonski. Il principe Andrei capì che quelle parole si riferivano a lui e che le diceva Napoleone. Ma aveva udito quelle parole come se avesse udito il ronzio di una mosca. La testa gli ardeva, sentiva di perdere sangue e vedeva sopra di sé il cielo lontano, alto ed eterno. Egli sapeva che quell'uomo era Napoleone, il suo eroe, ma in quel momento Napoleone gli pareva un uomo così piccolo e insignificante a paragone di ciò che ora accadeva fra la sua anima e quell'alto cielo infinito su cui correvano le nuvole. In quel momento tutto gli era indifferente. Chiunque gli fosse vicino e qualunque cosa dicesse di lui, era contento unicamente che qualcuno gli si fosse fermato accanto e desiderava unicamente che quella gente lo aiutasse e lo restituisse alla vita, che gli sembrava così bella, perché ora la capiva in modo tanto diverso da prima. Raccolse tutte le sue forze per muoversi e pronunziare un suono qualsiasi, mosse una gamba e mandò un debole, doloroso gemito che impietosì anche lui. «Ah, è vivo!» disse Napoleone. «Sollevate questo giovane e portatelo al posto di medicazione!» Il principe Andrei non capì null'altro. Perse la conoscenza per il tremendo dolore che gli cagionarono l'essere messo in barella, gli urti durante il trasporto e l'esame della ferita al posto di medicazione. Rinvenne soltanto verso sera, quando fu portato all'ospedale insieme con altri ufficiali russi feriti e prigionieri. I soldati che avevano trasportato il principe Andrei e gli avevano tolto l'immaginetta d'oro messagli al collo dalla principessina Maria, vedendo la benevolenza con cui l'imperatore aveva trattato i prigionieri, si affrettarono a rendergliela. Il principe Andrei non aveva veduto chi gliel'avesse rimessa, né come, ma a un tratto si trovò sul petto, sopra l'uniforme, l'immaginetta attaccata alla sottile catena d'oro. Come sarebbe bello, pensò il principe Andrei, dato uno sguardo a quell'immaginetta che la sorella gli aveva appesa al collo con tanta emozione e tanta pietà. Come sarebbe bello se tutto fosse così chiaro e semplice, come sembra alla principessina Maria. Come sarebbe bello sapere dove cercare aiuto in questa vita e che cosa ci aspetta dopo di essa, là, oltre la tomba. Come sarei felice e tranquillo se ora potessi dire: Signore, abbi misericordia di me. Ma a chi lo direi? La forza indefinita, incomprensibile, alla quale non soltanto non posso rivolgermi, ma che non posso neppure esprimere con parole, è il gran tutto o il nulla, egli diceva a se stesso. O è quel Dio che la principessina Maria ha cucito qui, in questo amuleto? Niente, niente è certo, se non la nullità di tutto ciò che io posso capire e la grandezza di qualche cosa che non si può capire, ma che è di somma importanza. La vita tranquilla e la calma felicità familiare a Lisia Gori si presentavano alla sua mente. Egli godeva già di quella felicità quando a un tratto appariva il piccolo Napoleone col suo sguardo indifferente, limitato e felice dell'infelicità altrui, e cominciavano i dubbi, i tormenti, e soltanto il cielo prometteva pace. Verso la mattina tutti questi fantasmi si mescolarono e si fusero nel caos tenebroso dell'incoscienza e dell'oblio. Il principe Andrei, con altri feriti in condizioni disperate, fu affidato alle cure degli abitanti del paese. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it.